Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Paola Saluzzi, conduttrice molto amata e da qualche tempo volto noto di Sky, è stata sospesa dall'emittente di Murdoch per un tweet. Non stiamo parlando di un tweet qualsiasi, ma di un messaggio postato sul suo profilo personale in cui appella in maniera poco signorile il pilota Fernando Alonso. La vicenda è iniziata lo scorso 10 aprile, quando sul profilo di Paola Saluzzi, accanita tifosa della Ferrari, è comparso questo messaggio. Alonso gli è tornata la memoria e si è ricordato di quanto sia arrogante, invidioso, pezzo di imbecille. Nessuna replica da parte del pilota, che però da quel momento ha rifiutato di rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione ai microfoni di Sky. Resasi conto dell'errore, la Saluzzi ha tentato di scusarsi, sempre via social, scrivendo: essere tifosi impone educazione, ho sbagliato io e basta. A quanto pare però le scuse non sono bastate e Sky ha preso provvedimenti, anche se ancora non ufficializzati. Oggi Paola Saluzzi non andrà in onda nella consueta conduzione di Sky TG24 pomeriggio. Intanto... Il servizio è preso da Fan Week e descrive quella che oggi la grande querelle che divide il pubblico di Twitter Italia, che è composto prevalentemente di personaggi già baciati da una loro celebrità, data loro da una posizione politica, da un ruolo in un giornale importante o appunto dalla conduzione di un programma radiotelevisivo. Paola Saluzzi, la fulva, simpatica, accattivante, perfetta maestra di cerimonie nei pomeriggi di Sky, è scivolata su una buccia di banana, si è lasciata andare in una sorta di impeto, di foga per il tifo, per una squadra di Formula 1, e ha dato del perfetto imbecille a un pilota che non l'ha mandata giù e gliel'ha fatta pagare come ha potuto, rifiutando prima l'intervista ai suoi colleghi a Shanghai e creando una piccola, diciamo, sanzione nei suoi confronti. Ieri non era presente nel suo studio televisivo, probabilmente sarà sospesa per qualche giorno, ma non è che certo la sua carriera sarà per questo compromessa, anzi oggi si è anche presa le prime pagine di molti giornali per il fatto che ha osato esprimersi in maniera virulenta, con una capacità di basso linguaggio di cui nessuno sospettava in lei. Ma il tema è un altro: quanto può essere considerato Twitter, che tra i social media è quello che almeno nel nostro paese rappresenta più una sorta di veloce espansione dei pensieri che già ufficialmente sono espressi, essere considerata un'espansione reale, concreta, di quello che noi rappresentiamo come esseri umani? È chiaro che se a fare il Twitter Alonso fosse stata una signora attempata con le vene varicose, che di professione faccia magari, non so, le pulizie per le scale di un condominio, Alonso non se la sarebbe presa. Se l'è presa perché è un personaggio già noto, e l'insulto dato da un personaggio che già ha un suo spazio importante è un insulto che sicuramente è amplificato, cuoce molto di più. Beh, su questo oggi vorrei interrogarmi con voi ascoltatori. 800 24 00 24, chiamo subito in causa un collega, Beniamino Pagliaro. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Beniamino, grazie. Pagliaro è un giornalista della Stampa, ha fondato Good Morning Italia, che è un servizio che fornisce appunto dei contenuti quotidiani a chi lo desidera. Ha scritto oggi un pezzo proprio che racconta, in cui racconta la storia di quanto Twitter può aver fatto male ad alcune persone. Chiedendoti di riassumerlo, Beniamino, però fa male soltanto alle persone che già hanno una loro fama, che già hanno un loro ruolo. Il comune cittadino può urlare quanto vuole su Twitter e al massimo viene considerato un troll, uno lo banna e non se la fa tanto un problema. Sì, diciamo che è abbastanza un palcoscenico per Gianotti, come ricordavi tu prima, ma di fatto è come la vita, insomma, quando andiamo per strada e c'è un attore che litiga con la moglie, diventa una notizia. Se invece io litigo con la mia fidanzata, questo non è affatto una notizia, perché a nessuno interessa. In ogni caso, nella situazione di cui parliamo, c'è un personaggio pubblico che va in televisione ogni giorno da anni, prende una posizione di quel genere, con anche il commento, diciamo, sul possibile malore di Alonso, quindi anche quello, diciamo, non di grande gusto. Ecco, ricordiamo che aveva avuto un trauma a livello mnemonico, quindi dire ha ripreso la memoria, come dire, è un insulto grosso, pesantino, c'è proprio un'acrimonia che molte volte non è giustificata, ecco. Sì, diciamo che ha parlato proprio il tifoso. Quante volte guardando una partita in TV insultiamo amichevolmente? Io, per dire, sono dell'Inter, non sai quante volte mi capita di insultare Icardi. Sì, ma lo fai nel divano di casa tua con i tuoi amici. Nel divano in casa mia. Non lo scriveresti su Twitter? Non lo scriverei su Twitter, a volte magari lo scrivo, però sono meno importante della salute, quindi si nota di meno probabilmente, come dicevi tu. Il punto è che noi usiamo i social media come uno strumento personale e pretendiamo che sia personale, ma allo stesso tempo lo usiamo anche come uno strumento di promozione e ufficiale. Quindi ormai i tweet, penso al Presidente del Consiglio, sono notizie, sono come i comunicati ufficiali di Palazzo Chigi, quindi hanno quella dignità e quel valore di una bolla papale. Renzi è dovuto giustificarsi una volta che un tweet era partito da un suo telefonino, ma che reggeva un suo portatelefonini, non era stato lui. Sì, quello è un caso divertente che ho citato. Un altro caso molto famoso che ho raccontato oggi sulla stampa è quello di Justin Sacco, una signora americana che a Natale 2013 si imbarca per un volo per andare in Sudafrica a salutare i parenti per le feste. Prima di partire scrive un tweet 65 caratteri: vado in Africa, spero di non prendere l'AIDS. Poi aggiunge: sto scherzando, io sono bianca. Chiude il telefono, si imbarca, quando arriva a Cape Town nella sua posta trova un sacco di notifiche di Twitter e poi una email del suo datore di lavoro, che era una società media americana, quindi comunque una società in vista, che l'ha licenziata perché nelle ore di volo quel tweet piccolo e insignificante è partito dai suoi 170 follower, quindi anche pochi, però poi un giornalista l'ha ritwittato, un altro ancora, ed è partita una catena infinita. La condivisione, la facilità di ritwittare un contenuto, come sappiamo, è esponenziale. Il risultato è stato che questa società, messa un po' alle strette, ha dovuto licenziare. Quindi la sintesi potrebbe essere questa: Murdoch ha agito come avrebbe agito naturalmente un editore, non certo alle nostre latitudini, che ancora non è capace di capire bene la portata o di definire o aspetta delle leggi. Molti hanno detto: vogliamo dei nuovi regolamenti. Ma cosa regolamentiamo? Già è tutto regolamentato. Quello che riguarda l'insulto, la calunnia, via dicendo. Bisogna semplicemente che le persone abbiano una maggiore coscienza di quello che sono quando twittano, ad esempio. Fermiamoci un attimo: 800240024. Chiamo in causa, mantenendo ancora Pagliaro in attesa, perché vorrei ancora dei suoi commenti, Andrea Rossetti. Andrea Rossetti, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Professore di filosofia del diritto all'Università Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. È un esempio da manuale, secondo te, professore, questo della Saluzzi? Dove esserci proprio la Saluzzi per ricordarci che in realtà quando twittiamo dobbiamo avere un po' più di attenzione o perlomeno aspettarci le conseguenze? Beh, come avete già detto, la reputazione delle persone famose è più importante in qualche maniera della reputazione dei singoli. Però è una cosa, appunto, deve essere veramente una lezione per tutti noi questo, per ricordarci il fatto che la distinzione tra pubblico e privato è la prima cosa in qualche modo che viene a cadere con l'uso dei social network. Secondo me giustificare la cosa dicendo che agiva, questa signora agiva come tifosa o come persona privata, non ha molto senso, perché lei è una figura pubblica, insomma. Una cosa analoga è successa, dato in questo, ovviamente con dimensioni molto diverse, è successa questi giorni nella mia città, Pavia, dove il capo dei vigili urbani ha sospeso due dei vigili perché si sono fatti fotografare mentre ballavano in una discoteca su Facebook. E questo, come il capo dei vigili urbani ha deciso di sospendere o di prendere una qualche sanzione, provvedimenti disciplinari nei loro confronti. Dobbiamo renderci conto che nel momento in cui usiamo i social network le altre persone ci guardano, ci giudicano, e questo può avere delle conseguenze anche molto pesanti sulla nostra vita lavorativa. È vero, come hai detto tu Gianluca, che le leggi ci sono, cioè il diritto positivo c'è, quello che manca è proprio la nostra educazione, la nostra capacità di usare in maniera consapevole questi strumenti, insomma. Quindi non esiste una zona franca in cui omnia licet, perché è un gioco fra amici, una facezia, è qualcosa in Italia perlomeno, adesso non so, poi mi dirà Pagliaro, che conosce bene la materia, se questo è diffuso, Twitter viene considerato come una sorta di salotto buono in cui esistono dei grandi trascinatori che possono dettare, lanciare massimi di saggezza e un pubblico dietro che poi dice bravo, che bello, stupendo, mi piace, non mi piace, godendo diciamo della fama e del prestigio di queste persone. È ora però che qualcuno di questi cominci a rendersi conto di quello che significa anche un suo messaggio. Molti dicono Pagliaro, vedi, anche Gasparri ha insultato una ragazza perché era lievemente sovrappeso, ma lui non tocca nulla. Ma il politico non può essere licenziato, questo è il problema. No, certo, il politico ovviamente non può essere licenziato, e qui ovviamente non bisogna dimenticarlo, insomma, che poi tutto il caso è stato montato anche dal fatto che Sky ha avuto un oggettivo danno da questo, no? Certo. Perché appunto si parla di soldi, non di scherzi, qualche bel miliardo usato per conquistarsi la Formula 1, evitare di avere la dichiarazione di un pilota così importante significa avere un danno comunque. Però proprio questa è la dimostrazione del fatto che quello che diciamo può essere letto, magari al di fuori del contesto, letto male, e avere conseguenze molto pesanti anche per altri, insomma, perché qui poi a chi è stato davvero danneggiato in qualche modo è stato Sky, no? Non direttamente colei che ha detto questa cosa. Secondo me è davvero da tenere presente, ormai tutti sanno, credono, che nel momento in cui si sottopone un curriculum a qualcuno, se il curriculum è davvero interessante, tutte le ditte, tutti i cacciatori di testo, una cosa che fanno è googolarvi, cioè mettere il vostro nome dentro Google e vedere che cosa ne viene fuori, che cosa avete detto sui social network, quali sono le posizioni che avete espresso, quali sono le foto che avete postato. Questo è sempre da tenere presente. D'altronde noi non andremo, nessuno di noi, no? Credo andrebbe nella piazza della sua città a urlare o a mettersi in bikini o magari a prendere gli atteggiamenti che ha in alcune delle foto che ha su Facebook o che ritwitta in qualche maniera. Dobbiamo renderci conto che queste sono esattamente come delle piazze, sono esattamente dei luoghi pubblici in cui tutti possono vedere e poi agire di conseguenza rispetto alle nostre azioni. Questo è innegabile, vuol dire, non credo che sia neanche un problema di privacy, no? Perché se vogliamo privacy su questi comportamenti, la prima cosa che noi dobbiamo fare è comportarci privatamente. Postare una cosa su Twitter non è comportarsi privatamente. Uno allora manda un messaggio privato a 10 amici dicendo quello che pensa. Esatto. Sentiamo un attimo Pietro velocemente. Pietro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io volevo dire che è gradevole parlare delle malattie, quindi richiamare la memoria. Io sono anch'io malato, quindi è molto sgradevole. Volevo poi dire che il social network è pubblico, la salute è un personaggio pubblico, pagato per essere personaggio pubblico. Per scrivere su Twitter non è come Facebook. Twitter devi pensarci, perché ci sono solo 140 caratteri, quindi pensi e ragioni come accorciare la frase. Per cui non è una frase che cade in un contesto più ampio, ma è una cosa che va direttamente al punto. Quindi secondo me è proprio pensata, e questa è la gravità secondo me dell'errore. Pietro dice una cosa molto interessante, su cui interrogherò Pagliaro fra un istante dopo l'informazione del traffico. In realtà fare un tweet è un'operazione di lima molto importante, uno deve vedere, tagliare, togliere, aggiungere, dare la massima efficacia, quindi ancora di più rispetto a una stupidaggine, una foto che uno può postare al volo su Facebook facendosi un selfie, fare un tweet significa fare un piccolo editoriale e nella sua corposa densità riassume un pensiero. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, parliamo dei limiti e le responsabilità del controllo della nostra ombra digitale. Ombra digitale è tutto ciò che noi inconsapevolmente, propriamente, ma consapevolmente produciamo digitalmente. E la collega Paola Saluzzi ha prodotto un tweet che le ha creato qualche problema, ma anche tanta visibilità. Benedetto, buongiorno. Salve, buongiorno. Ascolti, volevo intervenire. Cioè, secondo me non si parla della gravità del gesto che ha fatto Sky o Murdoch, ma voi vi rendete conto che noi siamo un paese che nella classifica mondiale siamo un paese semilibero per informazione e invece ritroviamo una giornalista che esprime un suo parere, poi che possa piacere o meno, quello lì indifferente, e viene sospesa, una giornalista viene sospesa perché... Lei che mestiere fa, Benedetto? Scrive... Benedetto, lei che mestiere fa? Io lavoro per la Fiera di Bologna. Ecco, se la Fiera di Bologna ha un danno economico per un suo comportamento sbagliato, dicono bravo. Ma però siamo, stiamo parlando di due la stessa cosa diversi, cioè, sì, non è che non è che ha espresso il suo parere, cioè, non si può mischiare pere e mele, non si possono mischiare pere e mele. No, ma scusi, lei... stiamo parlando di un giornalista, sì, che è praticamente la voce, può essere la voce da una parte o dall'altra, o dei cittadini, o comunque sì, ma dare dell'imbecille, scusi, dare dell'imbecille a una persona proprio perché ha avuto un incidente non mi sembra esprimere un parere, significa insultare una persona. Vabbè, ma dopo due secondi se ne è anche pentita, cioè questo è un altro caso. Se sbaglia subito si deve dare, si mette alla gogna, se però capisce che magari ha sbagliato, cioè si deve anche... Ma nessuno ha messo alla gogna a Paola Saluzzi, anzi ne stiamo qui parlando. L'ho sospesa. Quella è una sanzione, si chiama sanzione, si chiama sanzione, quando uno è un dipendente comunque, compie qualcosa ai danni dell'azienda per cui lavora, l'azienda è lecito che... No, quelle sono minacce, il fatto che i giornalisti tutti i giorni sono sotto minaccia. Ma guardi, sta parlando a un giornalista, mica sta parlando a un idraulico, nel senso, va bene? Sì, ma io non mi sento sotto minaccia, io ho, grazie a Dio, strumenti per esprimermi, ma se anche non avessi gli strumenti ufficiali attraverso i quali mi esprimo professionalmente retribuito, ho comunque possibilità di aprire un blog, di parlare, ancora questa libertà. Ma in Italia neanche un giornalista direbbe mai che si sente minacciato nel suo posto di lavoro, fino a quando ma magari non esprime il suo giudizio, il giorno dopo magari... Va bene, come lei ha espresso il suo giudizio, lo sto stando ad ascoltare, Benedetto, questo è il suo punto di vista. Non è il caso, secondo me, quello di Paola Saluzzi, in cui bisogna stracciarsi le vesti per un attentato alla libertà di stampa. Beniamino Pagliaro, io volevo invece affrontare con te l'altro problema, quello che ha toccato il nostro ascoltatore. C'è una differenza sostanziale tra l'esprimersi attraverso Twitter e l'esprimersi attraverso un altro qualsiasi social media. Aver preordinato, pensato, immaginato, sintetizzato un messaggio, e soprattutto qual è la differenza sostanziale nel nostro paese rispetto a quella che è la percezione di Twitter nel resto del mondo? La verità è che Twitter non esiste, cioè la prendo un po' da lontano, sì, ma Twitter è una piattaforma che, anche diversamente da Facebook, per esempio, ci propone solo una timeline, una cronologia, quindi in ordine cronologico, e non ci dà un contenuto di merito per dirci leggete più questa cosa o più un'altra. Quindi siamo noi che scegliamo la nostra rete sociale, siamo noi che scriviamo dei tweet a cui possiamo ricevere risposta o meno, quindi Twitter siamo noi, Twitter non esiste. In questo caso il noi è stata, per esempio, la Paola Saluzzi, piuttosto che Alonso che ha letto il suo tweet. Ecco, aver chiesto scusa in questo caso è un attenuante, vale, diciamo, aver fatto un passo indietro rispetto a una posizione, o lascia comunque scritto, cancellare non serve a niente, quando uno fa lo screenshot, anzi la cosa cancellata ha molta più evidenza della cosa che rimane, sì, online. Sì, ormai anche su questo ci sono precedenti, si cancellano i tweet, quando parliamo però di personaggi famosi c'è già qualcuno che ha fatto uno screenshot dello schermo e quindi quel tweet rimane comunque nella memoria collettiva. Twitter è questo un po', no? È come una cronaca in tempo reale di ciò che succede o dei pensieri che le persone ci pubblicano sopra. Il risultato è una specie di mosaico. In questo mosaico ci sono migliaia di contenuti di valore che vengono visti, altri che invece passano del tutto inosservati. Il punto in questo caso è che anche a cancellare una cosa parte in maniera esaltata, e questo va detto, ci sono delle campagne, diciamo, di pubblica umiliazione che sono anche esagerate, no? Adesso in questo caso è stato abbastanza limitato, no? Ma nel caso che ti raccontavo prima di Justine Sacco, l'avevano minacciata di morte, si era dovuta quasi riparare, questo aveva scatenato poi a sua volta i giornalisti che la inseguivano fuori di casa. E lei poi davvero aveva perso il lavoro. E poi quello mi conferma che non è un meccanismo neutro, ormai è qualcosa che incide concretamente e radicalmente nel mondo reale, non è più qualcosa che sfugge. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì. Complimenti per la trasmissione. Al volo. Senta, io volevo dire la mia su Paola Saluzzi. Secondo me, se io fossi il direttore di Sky in questo caso, visto che per avere... L'editore in questo caso... No, visto che io pago fior di milioni di euro per avere tutto questo circo mediatico, no? Chiamerei il signor Eccleston e direi: senti, prendi il tuo pilota, dagli una tirata alle orecchie, io non ti mando più la Saluzzi a intervistarlo perché non lo vuoi. Non era la Saluzzi, era una sua collega, sì. Vabbè, però non mi puoi discriminare tutti i miei giornalisti e non rilasciare più interviste a tutto il mio gruppo. Quindi lei, diciamo, lei è di quelli che parteggia per la soluzione, mi sembra chiaro. Andrei... sicuramente. Vabbè, grazie, anche rispetto messi vicino è molto più gradevole, questo lo riesco a capire. Andrea Rossetti, proprio in conclusione, da un punto di vista prettamente giuridico, anzi giuslavoristico, apre nuove prospettive nel diritto dei lavoratori, del lavoro, questa vicenda? Ma direi di no, in realtà, perché il fatto che coloro che lavorano per un'azienda debbano rispettare determinati prassi di comportamento, devono mantenere un certo comportamento anche al di fuori di quelle che sono le ore di lavoro, è un principio che è stabilito in moltissimi dei contratti, anche quello della pubblica amministrazione. Insomma, e quindi tweet o non tweet, comunque vale il principio. Grazie mille, miei ospiti, a domani.